le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Seconda ora, dalle 6 alle 7 del pomeriggio, Gesù si separa dalla sua Santissima Madre e si avvia al Cenacolo. Preghiera di preparazione. O Signor mio Gesù Cristo, prostrata alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima fino alla morte di croce. Dei, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti mentre ora medito l'ora dalle 6 alle 7 del pomeriggio. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o di applicarmi ai miei doveri o di dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei di praticare. Intanto grazie ti rendo, o mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te, e per piacerti di più prendi i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Mio adorabile Gesù, mentre insieme con te ho preso parte ai tuoi dolori e a quelli dell'afflitta mamma, vedo che ti decidi a partire per andare dove il volere del Padre ti chiama. È tanto l'amore fra figlio e madre che vi rende inseparabili, per cui tu ti lasci nel cuore della mamma e la regina e dolce mamma si depone nel tuo, altrimenti vi sarebbe stato impossibile il separarvi, ma poi, benedicendovi a vicenda, tu le dai l'ultimo bacio per rafforzarla negli acerbi dolori che sta per sostenere, le dai l'ultimo addio e te ne parti. Ma la pallidezza del tuo volto, le tue labbra tremanti, la tua voce soffocata, come se volesse dare impianto nel dirle addio. Ah, tutto mi dice quanto l'ami e soffri nel lasciarla, ma per adempiere la volontà del Padre, coi vostri cuori fusi uno nell'altro, a tutto vi sottoponete, volendo riparare per quelli che, per non vincere le tenerezze dei parenti ed amici, e i vincoli e gli attacchi, anche leciti e santi, non si curano di adempiere il volere santo di Dio e di corrispondere allo stato di santità a cui Dio li chiama. Qual dolore non ti danno queste anime nel respingere dal loro cuore l'amore che vuoi dar loro per contentarsi dell'amore delle creature. Amabile amor mio, mentre con te riparo, permettimi che mi lasci con la tua mamma per consolarla e sostenerla mentre tu parti. Poi accelererò i passi per venirti a raggiungere. Ma con sommo mio dolore vedo che la mia angosciata mamma trema ed è tanto il dolore che mentre fa per dire al figlio addio la voce le muore sulle labbra e non può più articolar parola, quasi vien meno e nel suo deliquio d'amore dice: figlio mio, ti benedico, che amara separazione, crudele più d'ogni morte. Ma il dolore la impedisce ancora di parlare e la rende muta. Sconsolata regina, lasciami che ti sostenga, ti asciughi le lacrime e ti compatisca nel tuo amaro dolore. Mamma mia, io non ti lascerò sola e tu prendimi con te, insegnami in questo periodo sì doloroso per te e per Gesù ciò che devo fare, come devo difenderlo, come ripararlo e consolarlo, e se devo mettere la mia vita per difendere la sua. No, non mi sposterò da sotto il tuo manto, ai tuoi cenni volerò a Gesù e gli porgerò il tuo amore, i tuoi affetti, i tuoi baci insieme ai miei, e li metterò in ogni piaga, in ogni gozzo goccia di suo sangue in ogni pena d'insulto, affinché, sentendosi in ogni pena i baci e l'amore della mamma, le sue pene restino raddolcite. Poi ritornerò sotto il tuo manto, portandoti i suoi baci per addolcire il tuo cuore trafitto. Mamma mia, il cuore mi batte, voglio andare a Gesù, e mentre io bacio le tue mani materne, tu benedicimi come hai benedetto Gesù e permettimi che vada da Lui. Mio dolce Gesù, l'amore mi addita i tuoi passi e ti raggiungo mentre percorri le vie di Gerusalemme insieme ai tuoi amati discepoli. Ti guardo e ti vedo ancor pallido, sento la tua voce, dolce sì, ma mesta, tanto da spezzare il cuore dei tuoi discepoli che ne sono conturbati. L'ultima volta che percorro queste vie da me solo, domani le percorrerò legato, trascinato tra mille insulti. E additando i punti dove sarai più vituperato e straziato, segui a dire: la mia vita è per tramontare quaggiù come sta per tramontare il sole, e domani a quest'ora non ci sarò più, ma come sole risorgerò il terzo giorno. Al tuo dire gli apostoli divengono mesti e taciturni e non sanno che rispondere, ma tu soggiungi: coraggio, non vi abbattete, io non vi lascio, ma sarò con voi sempre. Però è necessario che io muoia per il bene di voi tutti. Sì, dicendo, sei commosso, ma con voce tremula continui ad istruirli. E prima che ti chiudi nel cenacolo, guardi il sole che tramonta, come sta per tramontare la tua vita. Offri i tuoi passi per quelli che si trovano al tramonto della vita, e dai loro la grazia che la facciano tramontare in te, riparando per quelli che, ad onta di dispiaceri e disinganni della vita, si ostinano a non arrendersi a te. Poscia guardi di nuovo Gerusalemme, il centro dei tuoi prodigi e predilezioni del tuo cuore, che per contraccambio già ti sta preparando la croce, aguzzando i chiodi per compiere il deicidio, e tu fremi, ti si schianta il cuore e piangi la sua distruzione. Con ciò ripari per tante anime a te consacrate, che con tanta cura cercavi formarne portenti del tuo amore, ed esse, ingrate e incorrispondenti, ti fanno patire più amarezze. Voglio riparare insieme con te per addolcire lo schianto del tuo cuore, ma vedo che resti inorridito alla vista di Gerusalemme, e ritirando gli sguardi entri nel cenacolo. Amor mio, stringimi al tuo cuore affinché faccia mie le sue amarezze per offrirli insieme con te. E tu guarda pietoso l'anima mia e versando in esse il tuo amore mi benedici. Riflessioni e pratiche. Gesù con prontezza si separa dalla sua Santissima Madre, sebbene il suo cuore tenerissimo ne subisca uno schianto. Siamo noi così pronti a sacrificare per adempiere i divini voleri anche gli affetti più legittimi e santi? Esaminiamoci, specialmente nei casi di allontanamento della divina presenza sensibile o della sensibile devozione. Gesù, facendo gli ultimi passi, non li faceva a vuoto. In questi glorificava il Padre e chiedeva la salvezza delle anime. Nei nostri passi dobbiamo mettere le stesse intenzioni che metteva Gesù, cioè di sacrificarci per la gloria del Padre e per il bene delle anime. Dobbiamo inoltre immaginarci di mettere i nostri passi in quelli di Gesù Cristo. E come Gesù Cristo non li metteva a vuoto, ma racchiudeva nei suoi tutti quelli delle creature, riparando tutti i passi cattivi per dare al Padre la gloria dovuta e vita a tutti i passi cattivi delle creature perché potessero camminare per la via del bene. Così faremo ancora noi, mettendo i nostri passi in quelli di Gesù Cristo con le sue stesse intenzioni.